dar grazia alla mia regina, quella che ne for del re tiene il posto primiero, si potrà ottenere questa grazia per me. Quest'aura m'è fatale, m'opprime, mi tortura, come il pensier d'una sventura. Io parta le mestiere, andarmi facer bene fiando. Mio figlio! Al nome no! Ma quel d'altra volta, infelice, io reggo pietà, soffermi tanta pietà! Quella che a parlar d'amor, quelli Elisabetta tu, bella donata, assisa accanto a me, come ti vidi un dì, il cielo si illuminò, la selva rifiorì. Mia torta al sonno della vera sottrarmi perché vuoi, spietato ciel. Oh Carlo, oh Carlo, thank you.